Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Conoscete tutti Il Mago di Oz, il celebre romanzo per bambini di Frank Baum, che ai primi del Novecento diventa un classico della narrativa per ragazzi. Allora saprete che Il Mago di Oz racconta la storia di una bambina, Dorothy, che si trova improvvisamente catapultata in un mondo fantastico, da cui può fare ritorno solo grazie a un potentissimo mago. Il romanzo di Baum è un viaggio nella fantasia, un'immersione nella porzione di infanzia che ciascuno di noi ha conservato, un sogno ad occhi aperti. Le versioni teatrali e cinematografiche del romanzo di Baum non si contano. Il primo adattamento del Mago di Oz è per il teatro ed è un musical curato dagli stessi Baum e Denslow e va in scena a Chicago nel 1902 e a New York nel 1903, a Broadway. Questa versione teatrale è rivista dallo stesso Baum in chiave più adulta, con una maggior presenza di riferimenti politici in chiave allegorica. I primi film su Oz sono datati 1910 e 1914. In una successiva versione del 1925, Oliver Hardy recita la parte del boscaiolo di latta. Del 1939 è la versione più nota, Il Mago di Oz con Judy Garland nei panni di Dorothy. Nel 1974, il film di fantascienza Zardoz di John Boorman prende spunto dal romanzo e lo stesso nome Zardoz è una contrazione di Wizard of Oz. Anche i Muppet si sono cimentati con Oz. Del 2005 è un musical dal titolo I Muppet e il Mago di Oz. Oggi Destini Incrociati parla di un sogno che diventa realtà proprio grazie al Mago di Oz e a un incrocio casuale che avviene sul set di una delle infinite versioni cinematografiche della storia di Dorothy. Un sogno pop tra i più incredibili degli anni Ottanta. Una di quelle storie però che nella sua dolcezza conserva anche un retrogusto amaro e nella sua bellezza qualche elemento da incubo. Proprio come il mondo di Oz, che la piccola Dorothy esplora. Los Angeles, 1978. Il regista americano Sidney Lumet, che molti ricorderanno per film come La parola ai giurati o Quinto potere, sta portando a termine le riprese di The Wiz, un costoso B-movie che racconta in chiave moderna la storia del Mago di Oz. Per la verità B-movie non è il termine corretto, bisognerebbe usare un'altra parola inglese, Blaxploitation. Scopriamo cosa significa attraverso la voce di Quentin Tarantino, il regista americano che ha costruito il suo cinema e la sua fama proprio sulla riscoperta del B-movie. Con il termine Blaxploitation si intende una variante di quel particolare cinema di serie B che in America si chiama Exploitation, che ha la totalità o quasi dei suoi protagonisti neri e i temi principali, le musiche, tutto insomma vicino alla comunità black. Ricordo film come Blacula o come Foxy Lady. Li ho visti quando ero giovane, nei cinema intorno a Broadway, all'epoca dell'esplosione della Blaxploitation. Sembrava una Hollywood nera. In questo periodo anche Sidney Lumet si cimenta con questo genere di film. The Wiz, però, non è soltanto un oggetto di culto per cinefili, è una specie di raccordo di vite, di crocevia di destini. Sono tantissimi i personaggi che vi partecipano e che sono volti noti dello show business o che lo diventeranno. We'd be very grateful. Ad esempio, nella parte di Dorothy, una splendida Diana Ross, una delle più grandi cantanti pop americane, esplosa una decina d'anni prima con il suo gruppo, le Supremes. No love, love, don't come easy, but I keep on waiting and to suffocating for that soft voice to talk to me at night for some tender arms to hold me. Oltre a Diana Ross, sul set di The Wiz, si incontrano ad esempio lo sceneggiatore Joel Schumacher, che diventerà un noto regista hollywoodiano negli anni 90. C'è un attore destinato al successo, come Richard Pryor. genius who created me only took care of my dashing good looks, my razor-sharp wit, and my irresistible attraction to the wrong women. What he forgot. Ma poiché The Wiz è soprattutto un musical, c'è anche un grande compositore e arrangiatore, naturalmente nero, a occuparsi delle musiche. Si tratta di un musicista in un periodo molto delicato della sua vita. Scopriamo insieme Quincy Jones. Quincy Jones. Qualche anno prima, nel 1974, avevo avuto un aneurisma cerebrale che aveva cambiato la mia vita. Mi ero dovuto fermare per parecchio tempo e ripartire non era stato semplice. Era un periodo molto cupo. Quincy Jones, che nasce a Chicago negli anni 30, è uno dei più grandi musicisti black che gli Stati Uniti possano vantare. La grande determinazione che lo ha sempre caratterizzato nasce probabilmente dalla necessità di fare da subito i conti con le asprezze della vita, con cui si è dovuto scontrare sin da piccolo. Sicuramente Chicago negli anni 30, tra grande depressione, proibizionismo e criminalità, non è il posto ideale in cui crescere. Vivevamo nel cuore del ghetto di Chicago durante la Grande Depressione. Era forse il più grande ghetto d'America. Ogni quartiere aveva, diciamo così, il suo gangster di riferimento, bianco o nero. Avevamo intorno tutto questo casino. Era sotto i nostri occhi, ogni giorno. A questa autentica lotta per la sopravvivenza si aggiunge anche la malattia psichiatrica della madre, che viene chiusa in un manicomio. Non è una passeggiata l'infanzia di Quincy Jones, votata più alla conservazione, alla lotta contro le discriminazioni razziali, a sbarcare il lunario. Ma anche in questi primi anni di difficoltà c'è una nota di colore che dà forza e serenità: la musica. Vicino alla casa di Jones a Chicago c'è una fabbrica dismessa. Nel cortile si va a giocare a basket. All'interno dell'edificio ci sono molte stanze da esplorare, infinite avventure per i più piccoli. Una notte io e una mia amica entrammo per gioco ad esplorare la fabbrica. Girammo diverse stanze, poi improvvisamente, dietro una porta, ci apparve un piano. Dopo averci girato un po' intorno, provai a toccarlo. Questa mia amica prendeva lezioni di piano e iniziò a suonarlo. Fu molto bello. Da quel momento, tutte le volte che sfioro i tasti di un pianoforte, mi ricordo di quei momenti e mi ricordo chi sono e da dove vengo. A poco più di 10 anni, Quincy scopre il piano. Poco dopo, il padre gli regala una tromba. Infine, il destino gli regala un incontro. È il primo incrocio fondamentale nella vita di Quincy Jones, quello che gli cambia definitivamente l'esistenza. I got a woman. Ray Charles, un mito della musica black. Quando Quincy Jones ha solo 14 anni e si trasferisce a Seattle per problemi di lavoro del padre, arriva l'incontro fondamentale con il grande pianista cieco. Ray ha solo 3 anni più di Quincy, ma è già un pianista fenomenale e piuttosto noto. I due formano un duo e cominciano a esibirsi. E quando sono ancora adolescenti, arrivano i piccoli primi successi. Avevo 14 anni quando incontrai Ray per la prima volta. Veniva dalla Florida. Si era appena trasferito a Seattle, dove mi ero trasferito anch'io. Ray aveva 16 anni e, mio Dio, aveva un appartamento, un registratore, aveva una ragazza, 2 o 3 stanze. Quando lo conobbi, accidenti, mi invitò a casa sua e non ci potevo credere. Gli dicevo, non ci posso credere, hai solo 16 anni e hai già tutte queste cose. Era come se avesse 30 anni. Inoltre sapeva arrangiare i pezzi meravigliosamente. Scriveva e leggeva gli spartiti in Braille. Ero colmo d'ammirazione per lui. Il sodalizio con il grande Ray, le esibizioni nei club di Seattle, i primi soldi guadagnati con la musica. Tutte cose che fanno comprendere a Quincy che la sua vera strada è proprio quella, la musica. Così a 17 anni la scelta. Abbandona gli studi e tenta la strada del professionismo. Siamo negli anni 50. Negli Stati Uniti è l'ultimo momento d'oro delle big band jazz, dei club, dei locali famosi in cui la gente si infila per dimenticare che là fuori, accanto al boom economico, volteggiano i fantasmi del pericolo atomico, della guerra fredda, del maccartismo. Sarà così ancora per poco, perché il rock, in poco tempo, diventerà la vera musica popolare e il jazz si trasformerà in una sonorità profondamente aristocratica. In questi club, per $17 al giorno, Quincy inizia la sua avventura con Lionel Hampton, uno dei più grandi jazzisti di sempre. Rimane con lui ben 4 anni. In questo periodo si dimostra un buon trombettista, ma mette in luce una dote che saprà valorizzare molto bene in seguito. Scrive e arrangia canzoni con una classe straordinaria. Lionel Hampton and the band! I 4 anni con Hampton sono il trampolino di lancio. Le tappe successive sono fulminanti ed esaltanti. La lunga collaborazione con Dizzy Gillespie, gli studi di teorie e solfeggio a Parigi, l'inizio di una brillante carriera come produttore e compositore per artisti del calibro di Frank Sinatra e Barbara Streisand. La grande dote di Quincy è la versatilità. Musicista coltissimo e preparato, mescola con sapienza e maestria generi musicali diversi. Questa capacità di fondere, di amalgamare suoni di matrici differenti e suggestioni lontane tra loro, diventa la sua peculiarità. Ne è una dimostrazione il brano che domina le classifiche americane nel 1963, It's My Party di Leslie Gore, in Italia lanciato con il titolo La prima festa che darò. La commistione di generi è evidente anche nel progetto solista che Quincy porta avanti, la sua big band Bossa Nova, che con l'omonimo album nel 1962 fa ballare milioni di americani. E poi le prime colonne sonore per il cinema. Nel 1964, proprio Sidney Lumet lo contatta per la colonna sonora di uno dei suoi film di maggior successo, L'uomo del banco dei pegni. Quincy fa un lavoro straordinario, che sfiora la nomination agli Oscar. Arrivano in rapida successione collaborazioni per film memorabili. Qualche titolo? La vita corre sul filo, di Sidney Pollack. A sangue freddo, di Richard Brooks. La calda notte dell'ispettore Tibbs, di Norman Jewison. E Getaway, di Sam Peckinpah. Un pezzo di storia di Hollywood. Gli anni passano, fino a quel 1974, quando il mondo, per Quincy Jones, sembra fermarsi. Nel 1974 fui colpito da 2 aneurismi. Dopo il mio primo intervento, erano convinti che non ce l'avrei fatta. Così alcuni colleghi e amici organizzarono un concerto in mia memoria, ma io ero ancora vivo. Il dottore mi disse che ci sarei potuto andare, ma non mi sarei dovuto agitare. Era dura non agitarsi con Richard Pryor, Marvin Gaye, Sarah Vaughan e Sidney Poitier a cantare preghiere per te. Quincy ne esce e la sua grande forza di volontà, quella stessa che l'aveva tirato fuori dai ghetti di Chicago, lo tira fuori anche da questa situazione. Ma il mondo dello spettacolo è spietato. Non ti aspetta, non fa sconti. E Quincy Jones deve ripartire da zero. Deve iniziare una nuova carriera, deve trovare il modo di rilanciarsi. Come trombettista ha chiuso, come musicista anche. Lunghi e massacranti tour non sono più alla sua portata. Ormai è un arrangiatore e produttore a tempo pieno. La sua rinascita passa attraverso la colonna sonora di The Wiz. Sono i vecchi amici a richiamarlo, Sidney Lumet, con cui aveva esordito come compositore di colonne sonore, e Diana Ross, buona amica di lungo corso. Hanno ragione. La vita di Quincy troverà una svolta su quel set grazie all'energia frenetica e febbrile di quel musical folle e strampalato. E all'incontro con lo spaventapasseri del Mago di Oz. Tra poco, a Destini Incrociati. Come on now. Destini incrociati. Oggi Destini Incrociati racconta l'incontro casuale tra due straordinari musicisti. Un incontro che cambierà la vita di entrambi e segnerà in maniera indelebile gli anni Ottanta. Il primo dei due è Quincy Jones, che dopo un serio problema di salute, un aneurisma cerebrale, sta cercando di rilanciare la propria carriera. Nel 1978 viene chiamato ad arrangiare le musiche di The Wiz, un musical di serie B con un cast di attori neri. The Wiz è una versione moderna del Mago di Oz e nella parte dello spaventapasseri viene chiamato Michael Jackson. Michael Jackson. He's gonna get me back home. Oh, that's nice. Thank you. And good luck. Quella che avete sentito è proprio la voce del re del pop. La sua performance in The Wiz è molto divertente, di certo non memorabile per la storia del cinema. Tuttavia, la partecipazione al film, diretto da Sidney Lumet, porta Jackson la svolta definitiva per la sua carriera. Prima di scoprire il suo destino incrociato, capiamo insieme qual è stato il percorso di Jacko fino a quel 1978. Michael è il settimo dei 9 figli di Joe Jackson e di Catherine Screws. Joe Jackson negli anni 50 era il leader dei Falcons, un gruppo musicale che ottiene un discreto successo negli States. Non abbastanza per mantenere i 9 pargoli, così Joe si cerca un altro lavoro. La musica è quindi nel DNA dei fratelli Jackson, che fin da piccoli però devono fare i conti con la frustrazione artistica del padre. I bambini vengono così smistati ai vari strumenti, sassofono, tamburelli, bonghi, chitarra. Joe da padre diventa manager e i fratelli Jackson iniziano a esibirsi. LaToya Jackson, sorella maggiore di Michael, ricorda così il fratellino in quei primi anni. Quando eravamo piccolissimi, Michael passava il suo tempo a percuotere una vecchia casseruola come se fosse stata una meravigliosa batteria e cantava con la sua vocetta come fosse già un consumato showman. A 4 anni Michael scandisce il ritmo con i bonghi e nella band dei fratelli mette in mostra fin da piccolissimo le sue doti. Il padre sceglie per il gruppo il nome Jackson Family, poi Jackson Brothers e infine Jackson 5. Fin dall'inizio è quindi evidente la superiorità di Michael rispetto a tutti gli altri. Ricorda il fratello Jermaine. Michael aveva tanta di quella energia che all'età di 6 anni si comportava già come il nostro leader. Divenne il motore del nostro progetto artistico e il risultato fu immediato e incredibile. Il pubblico impazziva per lui. Il rapporto tra me e Michael è sempre stato un po' speciale. Nei primi tempi dell'attività con i Jackson, noi due eravamo i cantanti solisti del gruppo. In pratica, eravamo sempre insieme e questo ci ha portato a una grande sintonia. Il primo concerto dei Jackson 5 si tiene in un centro commerciale. I 5 ragazzi si piazzano al centro dell'atrio principale e iniziano lo show. Michael non ha ancora compiuto 6 anni e la gente lo guarda sbalordita. La seconda esibizione avviene in una scuola e sul giornale locale un articolo a tutta pagina viene dedicato alla mini band. Michael ricorda: il pubblico era entusiasta e ci lanciava banconote sul palco. Alla fine dei nostri show raccoglievamo anche $300, mentre la paga pattuita era soltanto di 20. In quei primissimi anni di carriera, Michael sbalordisce per la sua assoluta naturalezza. Sembra nato per cantare e per ballare. Dietro l'apparente spensieratezza, però, sembra celarsi uno stato d'animo più problematico. Me ne rendo conto solo oggi, forse anche allora. Ogni giorno avevo 3 ore di lezione, subito dopo andavo allo studio di registrazione e lavoravo ore prima di andare a dormire, tutte le sere. Mi ricordo che andando allo studio passavo davanti a un parco e vedevo gli altri bambini giocare, fare rumore. E piangevo per questo. Ero obbligato a lavorare invece di giocare. La vita di Michael è dura. Per lui c'è solo la musica, la danza, il lavoro, le serate. Non ho fatto quello che hanno fatto gli altri bambini. Le cose semplici che loro considerano normali. Avere degli amici, andare a dormire da loro, passeggiare con i compagni. Io queste cose non le ho mai conosciute. Non avevo degli amici, a parte i miei fratelli. E oggi compenso con quello che mi è mancato. e la gente si domanda perché sono sempre attorniato dai bambini. È perché io ritrovo in loro quello che non ho mai conosciuto quando era il momento. Disneyland, i parchi dei divertimenti, i videogiochi. Adoro queste cose. Da bambino non facevo che lavorare un concerto dopo l'altro. E poi gli studi di registrazione, le trasmissioni televisive, le interviste, le sessioni fotografiche. Avevo sempre qualcosa da fare. Negli States, fino ai primi anni 60, c'è ancora una netta divisione tra la musica dei bianchi e la musica dei neri. Stazioni radiofoniche, negozi di dischi, etichette discografiche, tutto è separato. La Motown Company, casa discografica fondata nel 1960 da Berry Gordy, cambia le regole del gioco e in brevissimo tempo diventa un importante punto di riferimento per tutta la musica nera, realizzando ottimi dischi di blues, jazz e soul music. La Motown naturalmente non si lascia sfuggire il fenomeno Jackson 5. Dopo il provino a Detroit, i ragazzi vengono scritturati e si recano a Los Angeles per la firma del contratto. In quella stessa occasione conoscono Diana Ross, che sente subito un particolare feeling con Michael e assicura il suo appoggio. Appena ho conosciuto Michael, il mio primo desiderio è stato di poterlo adottare, di diventare sua madre. Ma siccome non era possibile, ho deciso di diventare per lui una specie di madrina. Sono stata felice di presentare i Jackson 5, perché sapevo che un gruppo come quello aveva soltanto bisogno di un'occasione per poter cogliere il grande successo. Con la Motown, Michael incide i suoi primi 4 album da solista, tra il 71 e il 75. Hanno tutti un buon successo, ma nessuno di questi fa il botto. Inoltre, dopo il 1973, le vendite dei Jackson 5 cominciano a declinare. Il gruppo abbandona la Motown, cambia etichetta, ma il successo progressivamente sfuma. Alcune controversie legali bloccano anche il rapporto tra Michael e l'etichetta di Berry Gordy. Siamo arrivati al 78, il periodo più duro di questa prima fase della carriera di Michael Jackson. Il cambio di rotta arriva dapprima sotto forma di una telefonata. È Diana Ross. Ha proposto Michael a Sidney Lumet nel cast di The Wiz. Lo pretende accanto a lei perché pensa che il film ne trarrà giovamento, ma anche perché vuole che Michael incontri Quincy Jones, un vecchio amico, e perché pensa che tra i due possa nascere un sodalizio artistico di grande livello. Jones ricorda così l'impressione che Michael Jackson gli ha fatto al loro primo incontro. Nonostante il successo che gli era caduto addosso quando era ancora un bambino, direi che era un ragazzo piuttosto normale. Normale, sì, ma anche una persona enigmatica, complessa. In certi momenti sembrava timido e fragile, in altri aveva la saggezza di un vecchio. Era già molto famoso e dovunque andassimo c'erano gruppi di ragazzine per lui. Jones rimane impressionato soprattutto dal modo in cui Michael canta e balla. Ha modo di vederlo dal vivo sul set del film. Ne è catturato. I due parlano a lungo e decidono di provarci insieme. Michael vuole lanciare definitivamente la sua carriera solista. Quincy rilanciare la sua. Il risultato? Tra poco, a Destini Incrociati. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati racconta l'incontro tra Quincy Jones e Michael Jackson, avvenuto sul set del film The Wiz, grazie alla mediazione di Diana Ross. Per entrambi è un incontro fondamentale. Jones sta tentando di rilanciare la propria carriera dopo che 2 aneurismi cerebrali lo hanno a lungo tenuto lontano dal suo lavoro. Michael è nel momento più critico del suo giovanissimo percorso artistico, con i Jackson 5 sull'orlo dello scioglimento e una carriera solista che non decolla. Jones e Jackson decidono di collaborare. Intravedono l'uno nell'altro esattamente ciò che stanno cercando. La loro collaborazione si traduce in un album che segnerà la storia della musica. Il 1979, se ci pensate bene, è un anno fondamentale per la storia contemporanea e per la cultura popolare. Non solo si chiude evidentemente un decennio, ma il destino sembra approntare tutto per quello successivo, gli anni 80, che nel bene e nel male si faranno ricordare a lungo. Qualche esempio? Nel mondo inizia il disarmo nucleare. La Thatcher e Reagan incominciano il proprio percorso politico e la loro scalata al potere. Nel Golfo Persico si materializzano Saddam Hussein in Iraq e l'Ayatollah Khomeini in Iran. Poco più a nord, l'Unione Sovietica invade l'Afghanistan. Tutti eventi che finiranno per segnare gli anni Ottanta. Inoltre, il 1979 è, per le Nazioni Unite, il primo anno internazionale del bambino. È significativo che il vero Peter Pan della musica pop inizi la propria cavalcata trionfale proprio in quest'anno. Quando abbiamo cominciato a lavorare all'album, io e Quincy ci siamo seduti attorno a un tavolo a discutere di quello che volevamo ottenere. Il risultato finale è stato esattamente quello previsto. Anzi, tutto è andato molto meglio di quanto ci aspettassimo. Anche perché prevedevamo di vendere non più di 3 milioni di copie. L'album di cui parla Michael Jackson è Off the Wall, il primo frutto della collaborazione tra lui e Quincy Jones. Pubblicato dalla Epic nel 1979, Off the Wall è un prodotto eccezionale, curato nei minimi dettagli. Ha un impatto sonoro devastante, è un'autentica esplosione di energia positiva. Off the Wall sale immediatamente alle hit americane e vende 19 milioni di copie, diventando il disco di black music di maggior successo di tutti i tempi. Manterrà questa posizione fino all'avvento di Thriller. Per la registrazione dell'album, Quincy sceglie il meglio. George Duke alle tastiere, Phil Upchurch e Johnny Guitar alle chitarre. E poi le comparsate delle star, Stevie Wonder e soprattutto Paul McCartney, che compone per Michael Girlfriend. I quasi 20 milioni di copie venduti da Off the Wall fanno di Jones il più potente produttore discografico dell'industria musicale. Il musicista di Chicago è di nuovo al vertice della sua carriera. Off the Wall è stato un album straordinario. Io e Michael siamo riusciti a trovare un'intesa meravigliosa su tutto, dagli arrangiamenti ai testi. Lui ha fornito poi una performance incredibile. È stata un'esperienza elettrizzante, una delle più belle della mia esistenza. E mi ha cambiato, a più di 50 anni, la vita. Il successo di Off the Wall, che si prolunga anche nel 1980 e nel 1981, procura a Jackson i primi contratti pubblicitari miliardari. Il più redditizio è con la Pepsi Cola, che gli vale il più alto cachet mai registrato fino ad allora, 15 milioni di dollari. Jones e Jackson continueranno a collaborare anche per Thriller, l'album campione di incassi di tutti i tempi, con ben 110 milioni di copie, e con Bad, che invece arriva solo a 30 milioni. Dopo Bad, le loro strade si separano, senza che nessuno dei due abbia mai fornito un motivo ufficiale. Nel 2006, ai giornalisti che gli fecero la stessa domanda su una collaborazione con Michael Jackson, Jones rispose: «Per favore, ho tanto da fare. Abbiamo già dato. Ho 900 progetti e ho 76 anni. La grande fortuna accumulata permette a Jones di investire sulla musica, acquistando i diritti d'autore di circa 1600 titoli e di proseguire la sua attività di produttore e compositore. La storia di Michael Jackson è nota. Quello che a noi interessava era cogliere l'essenza di questo straordinario incrocio di destini che ci ha regalato alcuni tra gli album più belli della storia del pop. La riconoscenza e il rispetto che entrambi si sono sempre scambiati rimarrà eternamente un sigillo di questo straordinario sodalizio. Lavorando con Quincy ho imparato un sacco di cose. Io sono sempre stato assetato di conoscenza. Cioè, per me la felicità è imparare qualcosa che hai sempre desiderato sapere. Non dimenticherò mai l'esperienza del vedere Quincy lavorare. Cioè, perché lui, quando è al lavoro, cioè, non conosce i limiti. Quincy Jones sente ancora fortissimo questo legame, anche ora che Michael Jackson se n'è andato per sempre. Sì, possiamo dire che Michael ha restituito a noi neri ciò che ci appartiene. Per molto tempo la musica nera è stata mortificata e suonata in sordina, anche se il suo spirito è sempre stato il vero motore della musica pop. Grazie a lui non è più così, perché Michael è riuscito a portare la musica nera oltre ogni confine. Io gli ho voluto molto bene, come un figlio. Anzi, c'è una parte di me che avrebbe voluto essere suo padre. La nostra non è stata una collaborazione contrattuale, per denaro. È stata una scelta di collaborazione reciproca. Io ho scelto lui e lui ha scelto me. Un libero scambio che credo abbia lasciato un segno.